Destini incrociati. A Destini incrociati è di scena una grande amicizia. Il velocista nero Jesse Owens fa parte della squadra olimpica americana ai Giochi di Berlino del 1936. All'Olympia Stadium, davanti a 115.000 spettatori e al mondo intero, il regime nazista sta cercando di acquisire credibilità. Nelle città tedesche sono stati nascosti i segni della persecuzione razziale degli ebrei. La Germania si è messa a nuovo per colpire gli osservatori di tutto il mondo con un'immagine positiva ed efficiente. Inoltre, deve dimostrare la forza schiacciante della razza ariana. Quale occasione migliore delle Olimpiadi? Leni Riefenstahl, la più popolare regista europea, sta girando un film sulla manifestazione. È colpita dalla potenza e dalla grandezza degli atleti afroamericani. Jesse Owens è tra quelli. Ha appena vinto la medaglia d'oro dei 100 metri e lo aspettano altre tre gare. Tra poco, negli ambienti ovattati del villaggio olimpico, incontrerà un altro atleta col quale stringerà un'amicizia storicamente impossibile e umanamente toccante, che lo aiuterà a raggiungere un record mai superato, quello delle 4 medaglie d'oro. James Cleveland Owens nasce ad Oakville, Alabama, nel 1913. Dal profondo sud, gli Owens si trasferiscono al più progredito nord, una scelta obbligata per una famiglia nera e povera nel pieno dell'America della Grande Depressione. Il nome Jesse gli viene dato dalla maestra di scuola, che sente il bambinetto pronunciare timidamente le iniziali J.C., e capisce Jesse. Meglio così, Jesse suona bene. A Cleveland il giovane riesce a frequentare le scuole medie, dove conosce due insegnanti di educazione fisica che riescono a cambiare la sua vita. Jesse infatti trova nello sport quelle motivazioni che lo porteranno a competere e raggiungere l'eccellenza mondiale, come sottolinea lo stesso Sharp. Alle scuole medie superiori Charles Riley gli ha insegnato gli elementi fondamentali della corsa. Gli ha trasferito i rudimenti della velocità. Ma poi Larry Snyder ne ha scoperto le potenzialità in gara. Ma il fatto vero è che Jesse Owens aveva un talento naturale. Cioè, tant'è che non è progredito col tempo al college. Andava forte e basta. È tutto molto semplice. Jesse ha un dono e il suo spirito di partecipazione alle Olimpiadi è sincero e privo di ideologie. Gli anni delle rivendicazioni per i diritti dei neri sono ancora lontani e il divario da colmare è enorme. Jesse non è nuovo a imprese atletiche straordinarie. Già ai tempi del college, nel 1935, ha infranto 5 record mondiali ed eguagliato un sesto nel giro di 15 minuti. Una performance ancora oggi insuperata. Quello che ha fatto ai campionati del maggio 1935 resta il più grande spettacolo nella storia dello sport mondiale. Cioè, nessuno è mai riuscito a fare quello che ha fatto quel giorno. A Berlino gli afroamericani mostrano tutto il loro talento e offuscano la festa tedesca, dal punto di vista sportivo, si intende. Cornelius Johnson vince il salto in alto, John Woodruff gli 800 metri, Ralph Metcalf vince gli 800 ostacoli. La propaganda americana ha raggiunto i suoi obiettivi, pronta a dimenticare i suoi atleti al ritorno in patria. John Woodruff, compagno di Owens nella squadra delle Olimpiadi tedesche, ricorda come l'America li accoglie dopo le imprese a Berlino. Jesse ha fatto molto bene, ma al suo ritorno non ebbe grandi ingaggi. Corse contro i cavalli, fece delle esibizioni, cercò di fare del suo meglio per sostenere la sua famiglia. Ma quando io tornai all'Università di Pittsburgh, che stava realizzando una Hall of Fame, un museo delle personalità dell'università, non fui accettato. Nonostante avessi vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi e nonostante avessi potuto portare un riconoscimento internazionale a quella scuola. Questa era la situazione in America in quegli anni. Questo era il nostro paese. As I went walking, that ribbon of highway, I saw above me that in the skyway, yeah, and down below me, the golden valley. Jesse non pensa alla realtà americana, non quell'agosto del 36. Ha appena vinto una medaglia d'oro e non si cura tanto delle polemiche che la sua delegazione alimenta sul presunto rifiuto del Führer di stringergli la mano. Sono falsità. Adolf Hitler, dopo essersi congratulato personalmente con alcuni vincitori tedeschi, capisce che dovrebbe farlo da quel momento in poi con tutti, siano essi bianchi, neri, ebrei, e decide quindi di non congratularsi personalmente con alcuno di essi. sarà piuttosto il presidente Roosevelt a non voler ricevere gli atleti afroamericani una volta ritornati in patria. Ancora una volta le delusioni provengono da casa. Ancora una volta gli atleti pensano solo a vincere per se stessi, se non per la propria nazione. Nel villaggio olimpico, Jesse Owens vive intanto l'atmosfera fantastica e irreale del successo. L'atleta è ricercato da tutti. Leni Riefenstahl lo vuole in continuazione per le riprese del suo film. E poi ha stretto amicizia con molti atleti, persino con uno della rappresentanza tedesca. Un giovane della sua stessa età, 23 anni. Si chiama Lutz Long, l'uomo che incrocerà il suo destino con Jesse Owens. Facile superare le incomprensioni della lingua quando si condividono interessi ed entusiasmi. Quel giovane è uno specialista del salto in lungo e del salto triplo. Lo incontrerà quindi nelle qualificazioni. Intanto i due mostrano un'istintiva simpatia, un'amicizia, che non viene certamente favorita dai rispettivi responsabili. Nella persona del tipo nordico troviamo uno stile ben meditato, un lavoro sistematico in direzione del punto esterno di stacco, allo scopo di ottenere una prestazione migliore, un raccoglimento di tutto il corpo. Nel tipo negro troviamo invece un non sistematico precipitarsi del corpo verso l'alto, quasi simile al salto elegante e naturale di un animale selvaggio. È il commento meditato dei commentatori tedeschi alle tecniche di salto dei vari atleti, nel tentativo di giustificare scientificamente la differenza tra le razze. Le regole olimpiche parlano di uguaglianza, di fratellanza, di pace. Almeno negli stadi le regole sono ancora quelle. Lutz è l'atleta su cui la Germania nazista conta per acquisire una medaglia d'oro e vista la diretta competizione con un atleta nero per dimostrare la supremazia della razza ariana. Owens è lo strumento americano per mostrare sportivamente che gli Stati Uniti non temono l'escalation del Führer. Una triste ironia della sorte quella di Owens, di certo non un eroe in patria proprio per la sua pelle nera. È arrivato il momento della seconda gara per Jesse, quella del salto in lungo. Destini incrociati quest'oggi la storia dell'appassionante amicizia tra Jesse Owens, velocista americano, e Lutz Long, atleta tedesco specialista del salto in lungo. Avversari nello sport, ma straordinariamente amici nella vita. Si conoscono durante le undicesime Olimpiadi della storia moderna a Berlino. È il 1936. Il mondo corre verso un'irresponsabile escalation di violenza e odio che porterà alla Seconda Guerra Mondiale. Entrambi gli atleti sono strumenti della contrapposizione politica dei rispettivi paesi, contro i loro sentimenti, contro la loro natura. Ma durante la gara, la solidarietà e la nobiltà dell'amicizia vinceranno. Stanno per avere inizio le qualificazioni per il salto in lungo. Per Owens sarebbe l'occasione per vincere la seconda medaglia d'oro, sempre che Lutz Long non riesca a volare più lontano di lui. Lutz Long ha 23 anni, è alto, biondo, con gli occhi chiari. Il suo portamento è realmente nobile e profondo. È un simbolo della razza ariana, ma non comprende la retorica del suo regime. Si iscrive presto al Leipziger Sport Club nel 1926, quando ha solo 13 anni. Una carriera sportiva di tutto rispetto lo porta a detenere il record europeo di salto in lungo. Ha tutte le credenziali per battere il favorito Jesse Owens, ma vuole farlo lealmente. Le qualificazioni per il salto in lungo sono in contemporanea con la gara dei 200 metri. Owens è distratto. Pensa che la gara del salto non sia ancora cominciata e vuole fare un salto di riscaldamento. I giudici chiameranno il salto nullo. Owens non si capacita. Ha perso una delle tre prove per qualificarsi. Adesso è nervoso, ci riprova, ma il salto va nullo. Il piede di appoggio ha superato la linea di stacco. Come va a finire ce lo racconta Owens stesso. È capitato proprio qui, dall'altra parte della pista. Sono andato nullo sui primi due salti. Ero un po' disorientato. È a questo punto che Lutz Long è venuto da me e ha tracciato uno spazio di 30 centimetri prima della linea di stacco, dicendomi con un inglese incerto di centrarla. Tanto mi sarei qualificato lo stesso. Così ho fatto. Il salto era buono e sono arrivato in finale. Oh. Owens è in finale, così come Lutz Long. Ha inizio una gara che terrà tutti all'Olympia Stadium con il fiato sospeso. Presto tutti i finalisti vengono eliminati. La partita è una questione a due tra Jesse Owens e Lutz Long. Si rincorrono su tre salti. Long tiene testa all'americano sino a quando Owens non stacca il suo record mondiale, 8 metri e 6 centimetri. Per l'americano è medaglia d'oro, Long è argento. Il tedesco non riesce a trattenere una gioia istintiva. Corre da Owens a congratularsi con lui. Un gesto coraggioso dal momento che hanno gli occhi di tutto lo stadio puntati addosso, compresi quelli del Führer. Incuranti, i due amici raccolgono le loro cose e si avviano agli spogliatoi, discutendo dell'impresa appena vissuta. Per Owens è la seconda medaglia d'oro e deve ancora correre i 200 e la staffetta. Ho vissuto tanti momenti intensi quell'estate a Berlino, ma forse il momento più bello è stato quando ho avuto Lutz Long accanto a me sul podio, mentre ascoltavo l'inno del mio paese. Avremmo voluto che un momento di tale bellezza per la storia dello sport fosse stato colto da tutti in quello stadio, ma la storia dimostra esattamente il contrario. Jesse Owens e Lutz Long vengono premiati alla presenza delle massime autorità. Il podio si trovava proprio di fronte al palco delle autorità. Ho guardato in alto e ho visto Hitler con il braccio alzato tipico del saluto nazista. È rimasto così sino alla fine dell'inno. È stata una bella soddisfazione. E non sarà l'ultima. Owens si prepara per i 200 con due gare di qualificazione. Distruggerà ogni record con il tempo di 20 secondi e 7 decimi, dando diversi metri agli avversari. Terza medaglia d'oro. Poi, contro il suo parere, viene schierato anche nella 4%, la staffetta della velocità. Owens sapeva che la squadra avrebbe comunque vinto, ma l'ordine era di marcare la differenza con tutta la distanza possibile. Quindi sia Owens che Metcalf vengono schierati in squadra. Il risultato è il record mondiale, 39 secondi e 8 decimi. Il quarto oro per il campione americano. Le Olimpiadi di Berlino. Oggi ci appaiono come un evento non solo sportivo, ma di portata storica. Allora, per gli atleti di 50 nazioni, erano un'occasione per ribadire lo spirito sportivo che esalta la diversità e la convivenza, mentre il mondo invece si stava avviando verso altre direzioni. Per Jesse Owens sicuramente un ricordo fantastico. E così per Lutz Long, cui la storia impone un tragico destino. Tutti nello stadio hanno visto come si era comportato Lutz. Un uomo coraggioso, che non dimenticherò mai. La nostra è stata un'amicizia breve. Purtroppo, la guerra ci ha separati definitivamente. Già, la guerra. Al termine delle Olimpiadi, Long continua l'attività atletica per un anno. Dopodiché lavorerà come avvocato ad Amburgo. Ha una moglie e nel 1941 nasce anche un figlio, Carl. Lutz Long è stato richiamato alle armi in difesa del fronte meridionale e in Sicilia a contrastare lo sbarco alleato. Viene ferito mortalmente. È il 1943. Owens perpetua la sua amicizia col tedesco mantenendo stretti rapporti con la sua famiglia ad Amburgo e nel 1961 riesce a incontrare il figlio di Lutz, Carl, proprio nell'Olympia Stadium dove aveva incontrato il padre. Lutz Long è morto. È stato ucciso durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma ho avuto modo di rivederlo, incredibilmente, negli occhi di suo figlio Carl. È venuto a trovarmi qui a Berlino, all'Olympic Stadium, nel corso della mia visita. Finalmente abbiamo l'occasione di incontrarci e riabbracciarci. Owens negli anni 60 non ha abbracciato la militanza politica come molti neri in America avrebbero voluto. Ha 50 anni ed è rimasto un uomo semplice come allora. A lui importano le persone. Ed è da questo incontro che ricomincia un'amicizia interrotta più di 20 anni prima. Un incontro che è stato documentato. Carl, forse tu non lo sai, ma tuo padre è stato responsabile della mia vittoria nel salto in lungo nel 1936. È stato un momento importante della vita di mio padre. Ho visto molte foto di voi in pista a gareggiare. Ti prego, parlami di questa competizione. Io non so nulla. Ho visto mio padre solo 3 volte. Come sai, sono nato nel 1941 e mio padre è morto nel 1943. Ero troppo piccolo. Owens e il giovane Long si racconteranno le loro storie per molti anni ancora. Il mito del campione americano ha dato agli Stati Uniti 4 medaglie d'oro nelle Olimpiadi del 1936. Un record che resisterà a lungo, eguagliato quasi 50 anni dopo nell'atletica leggera da un altro afroamericano altrettanto elegante, fiero e di carattere. Un velocista che alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984 vincerà anch'egli 4 ori nelle stesse specialità di Owens: 100 metri, 200 metri, 4% e salto in lungo. Il suo nome è Carl Lewis. Carl Lewis, il figlio del vento. Ma questa è un'altra storia. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.